what you do. I know you're strong, I know you'll make it on your own without my help, but please make sure you won't be by yourself. Every time I hear my song on the radio, I keep moving closer and closer to you. Every time I do di Gigi D'Agostino torna, non mi ricordo il numero della puntata, so solo che è il 15 di novembre. Settimana caratterizzata da cose tristi, purtroppo spiacevoli, guerre insignificanti che continuano a stravolgere il mondo. Noi continuiamo a diffondere il nostro messaggio del fare senza ammazzare. È il programmino di Gigi D'Agostino. Feel so good up in my mind. È il programmino di Gigi D'Agostino. Quando le stelle si potranno toccare e la luna scenderà sul mare, solo allora ti potrò dimenticare. Bellissimo, il messaggio di Lucia da Neviano in provincia di Lecce. Grazie. Sono arrivati un sacco di messaggi, oggi leggerò qualche mail, qualche sms. Arrivati da tutta Europa. Ci ascoltano ovunque. Sì, che è un grande viaggio. La vera arte non sta nella creazione, ma nel togliere il superfluo, armonizzando ciò che già esiste sul modello delle nostre emozioni. È un messaggio di Dry Full, complimenti. Grande profondità. Un messaggio dalla Svezia, Emily dalla Svezia. È tutto in inglese, io non sono bravissimo. a tradurre, Indy, per cui lo leggerò un'altra volta. Comunque grazie, ci ascoltano anche dalla Svezia. Mary da Parigi, che mi chiede il titolo di un brano che ho messo scorsa volta alle 15.30, in questo momento non mi ricordo. Steffi dall'Austria, ancora messaggi di complimenti per la grande nottata a Cigliano. Poi c'è, bellissimo, la musica ha un potere straordinario, secondo me è l'unica vera magia mai esistita, magia dolce ma che sa essere tanto tagliente come il vento sulla faccia dopo il sogno più bello. Caro Gigi, tu hai sempre il potere di far rivivere quel sogno che un tempo è stato e non sarà più, in un mai che vive in lei. In un mai che vive in lei. Passeggiate paludose. Calorose. Di ogni brano che componi ci sono varie versioni. Secondo me in ognuno di loro scarichi delle emozioni. Questa per me è l'unica spiegazione. Se non è così, dammela tu una motivazione. Giovanni da Salerno. Ancora messaggi. Sempre di più il tuo pubblico cresce. Qualche nome? Melo, pesce. Un mio amico pescatore che mai rinuncia a ste due ore. Vorrei anche salutarlo, è il canto do pescatore a lui dedicarlo. Ancora un po' ne approfitto per dirgli Melo, zitto zitto. È il canto do pescatore, lo ascolteremo dopo. Allora, c'è ancora Mauri da Biella. Ecco, bellissimo. Gigiano, ma quanto hai spaccato a Cigliano? Tremavano anche le streghe. Metti I walking in the sky, I see the moon, I see the light. No generi musicali, no dolori lombari, no errori giudiziari, no sentenze criminali. Non ci parlate di guerre motivate, perché tanto i motivi sono storie malate. Non ci parlate di un sistema che funziona, se non hai le tue gambe, lui ti abbandona. Sì, che è un grande viaggio. Il programmino non è un programma programmato. Il programmino non è programmabile. Il programmino non cerca seguaci, cerca amanti o coperte pesanti. Emotiva. Continua di istanti in cui si svolgono eventi e variazioni delle cose. Variazione delle cose. Variazioni delle cose. Esaltazione delle cose. L'immaginazione dell'uomo fa sì che la verità trovi un'effettiva e inalienabile esistenza. L'immaginazione e non l'invenzione è la suprema padrona dell'arte, come della vita. Del programmino e non solo. Sabato 29 novembre, discoteca web Trebaso di Verbania, Verbania, grande evento del grande viaggio. Il programmino in discoteca sabato 29 novembre, discoteca web. A chi forma il triangolo del piede, a chi il sabato non si siede. Grande evento di Capodanno del grande viaggio, il programmino a Capodanno, mercoledì 31 dicembre, Altro Mondo Studio, Rimini. Goodnight. night, baby, good night. When tomorrow comes, I reborn, looking in your eyes, baby, good night. Sleeping tight and long, you'll wake up feeling warm, baby, good night. When tomorrow comes, I reborn, looking in your eyes. Mani a tempo, se avete tempo, fuori c'è bel tempo. sempre più dentro, ancora più forte. Il nostro numero della messaggeria per chi vuole scriverci in rima le sue immaginazioni: 333-6467-662. Posta elettronica gigi@supergigi.com. E il programmino non si siede, forma il triangolo del piede. Conoscere a memoria che cos'è lo Zen significa averne una semplice conoscenza intellettuale. Significa averne una semplice conoscenza intellettuale. E quindi possedere soltanto una dottrina. Comprendere veramente lo Zen vuol dire un'altra cosa. Vuol dire avere un'esperienza diretta della realtà ultima delle cose. Finché non abbandoniamo gli schemi e le dottrine, finché non svuotiamo la mente di ogni precedente conoscenza, non possiamo accedere direttamente alla verità. Dove l'acqua è più blu, niente di più. Niente di più. Dove è più blu, niente di più. ascoltarle, chi sa solo parlarle, non voglio più guardarle, chi non sa ascoltarle. Gigi D'Agostino. testa. basta un telegramma. Eppure i telegiornali ci ricordano ogni volta che il presidente Pinco Pallo e quello Vatto alla Pesca hanno mandato il loro telegramma di cordoglio alla famiglia Tal dei Tali. È quasi come se si fossero liberati quindi della loro responsabilità, del loro impegno. Quasi come se con quel telegramma fosse tutto a posto, tutto come prima. Purtroppo non posso dire quello che penso in profondità. Devo sorvolare. Chi vuol capire capisca. Viaggio insieme a me, io ci guiderò e tutto ciò che so te lo insegnerò finché arriverò. Il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Viaggio insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so te lo insegnerò finché arriverà il giorno in cui tu riuscirai a fare a meno di me. Viaggio insieme a me, io ti guiderò e tutto ciò che so te lo insegnerò finché arriverà il giorno in cui È bellissimo questo. C'ho un pensiero bellissimo. Non esistono innocenti. Tutti abbiamo passato un raffreddore a qualcuno. Marcello Marchesi. Canto do mar. Oh, canto do pescatore. Canto do mar. Canzone scritta al porto di Jesolo. Famoso pescatore. Non vi possiamo svelare il nome ancora. Dora condera otto, Dora condera otto, Dodo condera otto, Dora condera. Condera è un famosissimo pesce che vive nelle acque dell'Adriatico. È il pesce canterino. We'll be right back. Storia di uno che canta, le cose della vita. Le cose tristi, le cose felici, le cose struggenti, malinconiche. Canta anche i momenti felici proprio perché tristi. Ossia la felicità di essere tristi, la malinconia, quei momenti malinconici. Canta di quei momenti un po' struggenti, molto presenti. Fan sorridere le nostre menti. Guardando un fiore si commuove. A un certo punto torna e ricomincia a camminare e a cantare di quelle cose un po' struggenti che fanno sorridere le nostre menti. Lui canta di quelle cose ci parla delle rose. E ci parla del momento. Hay veces que hacemos, decimos cosas y no sabemos por qué. Solo sabemos que ahora estamos aquí, en este momento, el único momento válido en mí. El único momento, el único momento, el único momento, el único momento, el único momento, el único momento, el único momento, el único momento, el solo sappiamo che ora siamo qui. Momento. Questo è il momento. È l'unico momento. Solo sappiamo che ora valido siamo qui. È l'unico momento valido. Grandi eventi quelli del programmino. Sabato 29 novembre alla discoteca Web, Trebaso di Verbania, Verbania. Sabato 20 dicembre alla discoteca 24.000 baci di Latina, grande raduno. E la notte di Capodanno, mercoledì 31 dicembre, all'Altro Mondo Studio, Rimini. Sono i grandi eventi del programmino che gira nei club sottoterra insieme a voi. I ritmi e le melodie del programmino in giro per il mondo. Non sono sicuro che sia tondo. Se ci mangiamo mangiamo un panino ascoltando il programmino, quello di Gigi. Andare. Musica. questo. Il rumore del silenzio è sempre più forte. E il programmino in silenzio continua il suo cammino.